A maggio, per una decisione della Corte Suprema, era stata insomma aperta questa commissione parlamentare d'inchiesta, perché le pressioni istituzionali, politiche e anche dalla società civile erano tante, perché si verificasse effettivamente l'eventuale responsabilità del governo ai vari livelli nella gestione della pandemia. Quindi i lavori della commissione sono già stati avviati in un momento un po' delicato per quanto riguarda la pandemia e molto polemico dal punto di vista politico. In buona sostanza, molto spesso si era accusato anche le procure o comunque il sistema giudiziario in generale di non voler operare nel verificare queste responsabilità. Dunque la Commissione parlamentare d'inchiesta, che ha prerogativa di indagine insomma 360 gradi, ha iniziato a investigare, e nel corso di questi 6 mesi sono stati interrogate varie persone, vari personaggi, varie anche figure istituzionali, ministri e altri, alcuni come indagati e altri come testimoni, perché si ricostruissero alcuni dei tasselli o comunque delle circostanze più losche, pericolose intorno alla gestione della pandemia. Ovviamente la figura del presidente Jair Bolsonaro è stata preeminente anche dal punto di vista delle indagini, perché è comunque il presidente della Repubblica e mai ha nascosto la sua posizione rispetto al vaccino, rispetto all'utilizzo delle maschere, rispetto alla necessità di distanziamenti sociali, per cui è diventata un po' la punta dell'iceberg. Il problema è che, secondo quanto venuto fuori anche dai lavori della commissione, lui era al vertice, il capo di una dell'organizzazione che gestiva la questione della crisi pandemica, ma sotto di lui c'era una struttura molto consolidata. Una delle cose più inquietanti, diciamo, che è venuta fuori è appunto questa esistenza di un gabinetto parallelo, lo chiamano, cioè secondo quanto venuto fuori, all'interno del palazzo presidenziale si era installato un ufficio parallelo praticamente, che sostituiva per certi versi la struttura istituzionale democratica del paese, quindi i ministeri, le varie agenzie sanitarie, nell'adozione di decisioni o nel tentativo di condizionare alcune scelte nell'ambito della pandemia. Per cui è venuto fuori, anche intervistando i protagonisti, che per esempio c'erano state delle pressioni perché la clorochina diventasse nel foglietto illustrativo, fosse inserita come una terapia contro la Covid, nonostante a livello internazionale la comunità scientifica ne aveva già esclusa l'efficacia. Questa e tante altre cose, per cui al netto insomma della questione politica, diciamo così, ci sono delle responsabilità penali molto evidenti. Ora, la Commissione parlamentare d'inchiesta non ha potere di avviare processi o procedimenti penali o civili, per cui secondo la Costituzione adesso tutte queste indagini, che però hanno una valenza perché le persone sono state indagate, sono state interrogate come indagati o come testimoni, e ha una valenza anche probatoria quello che è stato detto e tutti i documenti che sono stati raccolti e le indagini che sono state fatte, adesso passano nelle mani della Procura Generale, che sostanzialmente spacchetterà questa relazione e in modo che ciascuno risponda nelle sedi più adatte, perché un privato cittadino, un medico che non abbia una funzione pubblica o un imprenditore che abbia finanziato campagne a favore della clorochina risponderà in una procura ordinaria, un senatore risponderà davanti alla Corte Suprema e il presidente risponderà su due piani eventuali, perché nel caso di un crimine comune, quindi un crimine commesso dal presidente ma che è un crimine che potrebbe commettere qualsiasi altro cittadino, risponde in un processo davanti alla Corte Suprema, mentre per quella, diciamo, short list, quella piccola lista di reati, di crimini di responsabilità ascrivibili esclusivamente al presidente, dovrebbe teoricamente rispondere in un processo di impeachment. Ma siamo ancora in una fase molto embrionale dal punto di vista delle indagini in sé. Prima dicevi delle accuse anche da parte della cittadinanza, di reticenza da parte della magistratura di avviare le indagini. Ieri la Commissione del Senato ha inviato tutti i documenti anche al Tribunale dell'AIA. La Carta Internazionale può essere, come dire, uno strumento per bypassare magari anche alcune reticenze brasiliane? Come dire, ha una valenza politica in questa fase. Tra i crimini che si sono stati contestati c'è anche quello di crimini contro l'umanità, laddove con la cosiddetta policy, la clausola della policy, si indica che il presidente ha praticamente istituito una linea politica che era finalizzata allo sterminio. Ora, a parte che si deve provare questa cosa, il grande problema dei processi davanti al Tribunale Penale Internazionale è che, oltre a dimostrare, diciamo, la colpevolezza, bisogna anche che si dimostri che il sistema sistema giudiziario sia incapace o non abbia la volontà politica di giudicare queste persone. Questo è un qualcosa di molto più difficile da dimostrare. Il presidente Bolsonaro ha già 3 denunce davanti al Tribunale Penale Internazionale per il presunto genocidio delle comunità native, quindi indigene, e anche per altre questioni. Si aggiunge anche questa. Ora, anche il Tribunale Penale Internazionale comunque si muove su una direttrice un po' politica, quindi bisogna un attimo capire a quel livello dove si può arrivare. Io ritengo che sia un po' difficile, e poi dipende anche dalla capacità adesso delle istituzioni democratiche brasiliane, per quanto giovani e per certi versi un po' fragili, siano in grado di rispondere a questa necessità. Le prove della Commissione Parlamentare d'Inchiesta, le testimonianze rese davanti ai senatori non lasciano molti dubbi. La situazione è grave, cioè la Commissione Parlamentare d'Inchiesta ha raccolto delle prove concrete, cioè ci sono cose serie, non è una caccia alle streghe, per cui è interessante vedere adesso quali saranno le prossime tappe. In tutto ciò va anche detto che il Brasile sta attraversando un momento economico molto difficile, con pressioni sia a livello internazionale di mercato sia a livello di proprio economia reale, per cui si crea un calderone, e adesso bisogna andare a vedere come si svilupperà nei prossimi giorni e le prossime settimane, ma la situazione è preoccupante per molti versanti.